Poi io dissi: ascoltate, capi di Giacobbe, magistrati della casa di Israele, non spetta forse a voi conoscere il diritto? Nemici del bene e amici del male, voi strappate loro la pelle di dosso, la carne dalle loro ossa. Essi divorano la carne del mio popolo e spezzano loro le ossa. Li squartano come carne nella marmitta, come carne nella pentola. Allora grideranno al Signore, ma non risponderà a loro, e gli volgerà altrove la faccia a causa dei delitti che han commesso. Così parla il Signore contro i profeti che fanno deviare il suo popolo. Se han qualcosa da mettere tra i loro denti, essi proclamano la pace. Ma a chi non mette loro niente in bocca, essi dichiarano la guerra. Perciò c'è notte per voi, niente visione, per voi le tenebre, niente divinazione. Il sole tramonta per i profeti e il giorno si oscura su di loro. I veggenti saranno ricoperti di vergogna e chi spiega gli oracoli di confusione. Si copriranno la barba tutti quanti perché non c'è risposta del Signore. Io invece sono ripieno di forza, dello spirito del Signore, di giustizia e coraggio per annunziare a Giacobbe il suo delitto, a Israele il suo peccato. Ascoltate dunque questo, capi della casa di Giacobbe, funzionari della casa di Israele, voi che avete in abominio il diritto e pervertite quello che è retto, che costruite Sion col sangue e Gerusalemme col delitto. I suoi capi fanno giustizia per regali ed i suoi sacerdoti decidono per mercede. I suoi profeti vaticinano per danaro, si appoggiano sul Signore dicendo: «Il Signore non è forse in mezzo a noi? La sventura non verrà su di noi». Perciò, per colpa vostra, Sion sarà un campo da arare, Gerusalemme sarà un mucchio di rovine e la montagna del Tempio un'altura selvaggia.